mormorarono in modo irriverente. Chi ci darà la carne? Chi è Mosè? Vedremo questo studio con il seguente schema. 1. Il fatto. 2. Il peccato. 3. La tentazione. 4. L'applicazione. Vi sono degli atteggiamenti veramente deplorevoli, quali il terrorismo, la pedofilia, lo stupro, la vendetta. Ho letto in un periodico di un uomo che ha preso a calci alla moglie incinta fino a farla abortire e poi è scappato con l'amante. Poteva quest'uomo almeno solamente scappare con l'amante? Ha voluto vendicarsi della moglie facendole del male e uccidendo una creatura innocente. Atteggiamenti del genere sono condannati da chi possiede una piccola e parziale coscienza e la maggioranza delle persone è pronta a chiedere giustizia per tali gesti. O con una severa condanna, o con la pena di morte. Eppure vi sono altri atteggiamenti che a nostro parere non sono poi così gravi, ma che il Dio Trino dei cristiani punisce con una tale severità da sorprenderci. Fra questi atteggiamenti trattati con molta durezza da Dio, ma che noi spesso lasciamo correre, si trova il mormorare, inteso come brontolare, lamentarsi o manifestare il proprio malcontento. Abbiamo una dimostrazione della severità dell'Eterno Dio nei confronti del mormorio in uno degli episodi più belli e, nello stesso tempo drammatico, della storia del popolo di Israele, quando il popolo di Dio, dopo 430 di schiavitù in Egitto, fu liberato miracolosamente dall'Eterno, passò all'asciutto il Mar Rosso e si incamminò verso la terra promessa ai loro antenati. Ma il popolo di Israele mormorò, commettendo così un grave errore ripetuto 10 volte, inducendo l'Eterno a emettere una terribile sentenza. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto, voi tutti che siete stati recensiti dall'età di 20 anni in su, e che avete mormorato contro di me, non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare. Numeri 14.2. Come è vero che io vivo, tutta la terra sarà ripiena della gloria dell'Eterno. E tutti questi uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi che ho fatto in Egitto e nel deserto, e mi hanno già tentato 10 volte e non hanno ubbidito alla mia voce, certo, non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà. Numeri 14.2123. Ovviamente, le continue e insistenti lamentele del popolo e la decisione da parte dell'Eterno di far morire nel deserto almeno 2 milioni di persone non è avvenuto in un attimo. Perciò è opportuno considerare come, quando e perché nei confronti del mormorio si sia arrivati a una delle più severe sentenze. Un attento esame di questa drammatica decisione dovrebbe aiutarci ad evitare per sempre le lamentele relative al nostro stile di vita e a ciò che ci succede, dal momento che entrambe le cose rientrano sempre nella volontà di Dio. Se un passero non cade a terra senza il volere del Padre nostro, quanto più in ogni momento la nostra esistenza è nelle mani di Dio. 1. Esodo 5 e 19:23. Ci avete messi in cattiva luce. La prima lamentela del popolo di Israele proviene dai suoi rappresentanti. Quando Mosè e Aronne inizialmente si presentano al faraone per chiedere di lasciare andare il popolo perché possa offrire dei sacrifici all'Eterno, il faraone ritiene questa richiesta una scusa per non lavorare e opprime ancora di più il popolo di Israele, non dando paglia per fabbricare dei mattoni. Così è il resto del racconto. I capi squadra dei figli di Israele si resero conto di trovarsi nei guai, perché veniva loro detto: non diminuite per nulla il numero dei mattoni prescritto giorno per giorno. Poi, come uscivano dal faraone, incontrarono Mosè e Aronne, che stavano ad aspettarli, e dissero loro: l'Eterno volga lo sguardo su di voi e giudichi, poiché ci avete resi odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi servi nel mettere nelle loro mani la spada per ucciderci. Allora Mosè tornò dall'Eterno e disse: Signore, perché hai messo questo popolo nei guai? Perché dunque mi hai mandato? Poiché, da quando sono andato dal faraone a parlare in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo, e tu non hai affatto liberato il tuo popolo. Compiere la volontà di Dio non è per nulla facile. Se così non fosse, sarebbe praticata dalla maggioranza. Cosa rende difficile il compiere la volontà di Dio? Le ragioni sono varie, ma soprattutto il fatto che le circostanze della vita a volte si complicano. Se una persona si occupasse solo dei fatti suoi, se facesse solo quello che fa la maggioranza, non incontrerebbe molte difficoltà. Ma quando, ad esempio, si vive in una cultura cattolica romana la quale consente l'adorazione e l'onore di migliaia e migliaia di statue rappresentanti santi e madonne, allora chi è un cristiano e per obbedienza al proprio creatore rifiuta di venerare o pregare davanti ad esse, si trova in conflitto con la società. Se poi il cristiano con coraggio denuncia tale pratica come idolatria, allora è certo di incontrare l'ira di molti religiosi, così come Mosè e Aaronne che nell'annunciare la volontà di Dio al faraone peggiorarono la situazione, anche chi predica il vero Evangelo spesso peggiora il suo rapporto con il prossimo e deve essere pronto a soffrire a causa di Cristo senza lamentarsi di non avere una vita religiosa serena come gli increduli e gli idolatri. Decidere di vivere per Cristo e poi mugugnare perché si soffre per Cristo è disonorare la scelta fatta. 2. Esodo 14, 1-20. Perché ci hai condotti a morire nel deserto? Il popolo di Israele era uscito miracolosamente dalla terra di Egitto, ed ora era gioiosamente incamminato verso la terra promessa. Ma ad un tratto, pocanta casa calassasaili quende cavala malima, l'Eterno parlò a Mosè dicendo: «Di ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino presso il mare». Fu quindi riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, e il cuore del faraone e dei suoi servi mutò nei confronti del popolo. E dissero: «Che abbiamo fatto a lasciare andare Israele dal nostro servizio?» Così il faraone fece preparare il suo carro e prese con sé il suo popolo. Prese anche 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto, con dei guerrieri su ognuno di essi. Gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero quando erano accampati presso il mare. Mentre il faraone si avvicinava, i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco gli egiziani marciavano dietro loro, per cui ebbero una gran paura. E i figli di Israele gridarono all'Eterno, e dissero a Mosè: «E perché non c'erano tombe in Egitto, che ci hai condotti a morire nel deserto? Perché hai fatto questo con noi, di farci uscire dall'Egitto? Non era forse questo che ti parlavamo in Egitto, dicendoti: lasciaci stare così potremo servire gli egiziani, poiché sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto». Ma Mosè disse al popolo: «Non temete. State fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno, che egli compirà oggi per voi, poiché gli egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più. L'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli». La volontà di Dio non solo a volte crea difficoltà, ma è anche insensata. Gli israeliti erano già ad una buona distanza dall'Egitto e più vicini alla meta, ma ecco giunger loro l'ordine dell'Eterno di tornare indietro e accamparsi presso il mare dove non si poteva passare. Come se ciò non bastasse, gli uomini del faraone li inseguivano, impedendo loro tanto di proseguire quanto di retrocedere. A questo punto il popolo di Israele si lamenta per la seconda volta e accusa l'Eterno di dover morire nel deserto. È facile condannare gli altri, ma quante volte ci si lamenta perché obbedire a Cristo non ha senso? Ha forse senso essere riconoscenti a Dio nelle disgrazie? Ha forse senso perdonare quando la voglia maggiore è fare le proprie vendette? Ha forse senso non fare sesso prima del matrimonio, oppure rifiutare l'occasione nascosta del tradimento? Ha senso evitare di dare il culto agli uomini quando tutti lo fanno? Ma il guaio più grosso dei credenti in Cristo non è dare un senso a tutto, ma di recriminare le vie di Dio a causa della loro incomprensibilità. 3. Esodo 15, 22-25. Che berremo? La terza lamentela è espressa dal popolo di Israele nel momento meno opportuno, quando le circostanze avrebbero dovuto portarlo esclusivamente a adorare il suo Dio. Israele era passato miracolosamente all'asciutto attraverso il Mar Rosso perché l'Eterno aveva prosciugato una lingua di mare. Il popolo, tutto felice, intona un canto di riconoscenza, loda le gesta dell'Eterno, danza dalla gioia. Il racconto del viaggio continua in questo modo. Poi Mosè fece partire gli Israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara non poterono bere le acque di Mara perché erano amare, perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Così egli gridò all'Eterno, e l'Eterno gli mostrò un legno. Egli lo gettò nelle acque, e le acque divennero dolci. Là l'Eterno diede al popolo una legge e un decreto, e lo mise alla prova. Dunque, passano solo 3 giorni, e, non trovando l'acqua, il popolo dimentica la straordinaria salvezza ottenuta solo pochi giorni prima. Così inizia di nuovo a mormorare. Vuole l'acqua. 2. Sono le riflessioni. Il popolo ha dimenticato troppo presto la liberazione e l'intervento di Dio. Quante volte anche noi dimentichiamo di essere stati salvati in situazioni difficili o di aver evitato miracolosamente un incidente stradale? Quante volte le occasioni della vita sono state favorevoli? E alla prima difficoltà o di fronte ad una disgrazia, eccoci di nuovo impegnati a lamentarci per come vanno le cose. Inoltre, è da notare che Israele si lamenta per qualcosa di lecito, la mancanza d'acqua. In questo caso il popolo non si lamenta per cose superflue, ma per il necessario. Non è forse questa la ragione per la quale tanti credenti trovano lecito mormorare? Eppure quando si serve Cristo occorre non lamentarsi soprattutto della penuria di ciò che è lecito. Ho presente un giovane che si lamentava con me perché Dio non gli concedeva certe soddisfazioni, terminando la rimostranza dicendo: ma a Dio alla fine chiedo solo ciò che è lecito. Se gli avessi chiesto delle cose sbagliate potrei anche capire la ragione per cui non mi risponde, ma perché non mi esaudisce in quello che anche lui sa essermi necessario? Comprensibilissimo il fatto che si spanda la propria anima davanti a Dio, ma è sbagliato e pericoloso farlo con la lamentela. Per questo il popolo di Israele ha vagato per 40 anni nel deserto. E 40 anni di punizione non sono pochi, tenendo soprattutto conto che le lamentele furono solo 10. Questo dimostra quanto sia grave la lamentela agli occhi di Dio. Che ce ne liberi! 4. Esodo 16, 1-12. Ci avete condotti in questo deserto per farci morire di fame. Dopo un mese di viaggio verso la terra promessa, il popolo di Israele per la quarta volta mormora nei confronti dei suoi 2 conduttori, Mosè e Aaronne. Questo è il racconto descritto nel libro dell'Esodo. Poi essi partirono da Elim e tutta l'assemblea dei figli di Israele giunse nel deserto di Sin, che è fra Elim e il Sinai, il 15° giorno del 2° mese dopo la loro partenza dal paese d'Egitto. E tutta l'assemblea dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aaronne nel deserto. I figli di Israele dissero loro: «Oh, fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese d'Egitto, quando sedevamo presso le pentole di carne e mangiavamo pane a sazietà, poiché voi ci avete condotti in questo deserto per far morire di fame tutta questa assemblea». L'Eterno disse a Mosè: «Ecco, io farò piovere per voi del pane dal cielo, e il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la provvista del giorno, perché io lo voglio mettere alla prova per vedere se camminerà o no, secondo la mia legge». Mosè disse: «Questo avverrà quando l'Eterno vi darà carne da mangiare alla sera e pane a sazietà al mattino, poiché l'Eterno ha udito le vostre mormorazioni che avete fatto contro di Lui. Ma noi che cosa siamo? Le vostre mormorazioni non sono contro di noi, ma contro l'Eterno». Questa volta le mormorazioni non erano dirette verso l'Eterno, ma nei confronti delle autorità che l'Eterno aveva stabilito, eppure non erano meno colpevoli di quelle rivolte direttamente a Dio. In effetti, il trovarsi nel deserto dove non vi era né pane né carne non poteva essere attribuito a Mosè e ad Aaronne, ma al loro Dio che li aveva incaricati, e, tramite loro, aveva salvato il popolo dalla schiavitù di Egitto. L'errore del popolo di Israele è un errore molto comune. Si pensa che mormorare nei confronti di un'autorità sia meno grave che farlo nei confronti di Dio, ma non per nulla gli apostoli hanno messo enfasi sulla necessità di essere sottomessi alle autorità e sul dovere di rispettarle. La sottomissione non implica necessariamente ubbidienza, ma implica sempre e comunque rispetto e soprattutto non mormorare per la funzione da queste svolta. In effetti, quando la Scrittura ordina di essere sottomessi alle autorità, indica di rispettare il ruolo piuttosto che le persone stesse che lo rivestono. Il mormorio nei confronti delle autorità è in realtà nei confronti di Dio stesso. 5. Esodo 17. 1 a 7. Perché ci fai morire di sete? Si sa che viaggiando in un deserto si deve far fronte alla carenza d'acqua, e il popolo di Israele ne era consapevole. Eppure ad un certo momento mormora anche per questa necessità. L'episodio è descritto nel libro dell'Esodo. Poi tutta l'assemblea dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini dell'Eterno, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè e disse: "Dacci dell'acqua da bere". Mosè rispose loro: "Perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno?". Là il popolo ebbe sete di acqua e mormorò contro Mosè, dicendo: "Perché ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?". Così Mosè gridò all'Eterno, dicendo: "Che farò io per questo popolo? Ancora un po', ed essi mi lapideranno". L'Eterno disse a Mosè: "Passa davanti al popolo e prendi con te degli anziani di Israele. Prendi anche nella tua mano il tuo bastone col quale percuotesti il fiume. E va, ecco, starò davanti a te là sulla roccia in Horeb. Tu percuoterai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà". Mosè fece così davanti agli occhi degli anziani di Israele. Perciò chiamò quel luogo Massa Meriva a motivo della contesa dei figli di Israele e perché avevano tentato l'Eterno, dicendo: "È l'Eterno in mezzo a noi o no?". L'acqua rappresenta la fonte di ogni vita e per quanto questo sia un concetto razionalmente comprensibile, è vero che pochi sono consapevoli del suo valore. Bisognerebbe vivere in un luogo dove non esiste l'acquedotto, e ciò che è solo una consapevolezza razionale si trasformerebbe in una cognizione esistenziale. La differenza è enorme. Il popolo di Israele marciava a tappe secondo l'ordine dell'Eterno, ma l'ubbidienza li portò alla necessità più vitale. Non è così diverso per chi vive a tappe nella volontà di Dio, perché oggi può possedere ciò che occorre, domani può trovarsi in grande necessità. Questa alternanza fra abbondanza e penuria per un cristiano è un grande e necessario esercizio di fede, uno strumento per imparare a saper vivere senza lamentarsi. Oh, se i cristiani comprendessero questo principio di Dio! L'Eterno conosceva le necessità del popolo di Israele. Il nostro Dio sa le cose delle quali abbiamo bisogno, e se è grave dubitare della sovranità di Dio, è forse meno grave lamentarsi? La lamentela è la forma di incredulità e ingratitudine più odiosa. 6. Esodo 32, 1-14. Che ne è stato di Mosè? Il popolo di Israele era finalmente arrivato al monte Sinai, cioè all'incontro con il suo Dio, e Mosè, come sempre, per ordine dell'Eterno, era salito sul monte per ricevere le leggi relative al popolo. Ma il periodo di intrattenimento di Mosè con l'Eterno si prolungava più del previsto, e il popolo rivelò ancora una volta la brutta abitudine di lamentarsi. Così troviamo descritto l'episodio. Or il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno ad Aronne e gli disse: "Or su, facci un Dio che vada davanti a noi, perché quanto a Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa gli sia accaduto". Aronne rispose loro: "Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie, e portatemeli". Così tutto il popolo staccò gli anelli d'oro che avevano ai loro orecchi e li portò ad Aronne, il quale li prese dalle loro mani e, dopo averlo modellato con il cesello, ne fece un vitello di metallo fuso. Allora essi dissero: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto». Quando Aronne vide questo, eresse un altare davanti ad esso e fece un bando che diceva: «Domani sarà festa in onore dell'Eterno». L'indomani essi si alzarono presto, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di ringraziamento. Il popolo si adagiò per mangiare e bere. Poi si alzò per divertirsi. Chi ha una certa esperienza di cammino con Cristo ha compreso che i tempi di Dio non sono i nostri. Noi siamo così fatalmente malati di fretta, al punto di non accorgercene neppure. Ho conosciuto dei credenti venuti dall'Africa nella mia regione per lavorare, e il primo impatto da loro, subito con la nostra cultura, non è provenuto tanto dalla tecnologia o dai nostri costumi quanto dal nostro ritmo di lavoro. Tutto è frenetico e perennemente in ritardo. Ogni azione giornaliera si muove in un ingranaggio ansioso di terminare, come se il tempo impiegato ad arrivare fosse una condanna. Purtroppo, come sempre, tutto si riflette sulla vita spirituale, dove i credenti svolgono ogni cosa. Come se il tempo fosse di loro competenza e fosse in loro potere portare a termine gli obiettivi. E tutto quello che non rientra nei loro schemi è ragione di mormorio. Mormorare quando Dio tarda a rispondere è uno degli errori più comuni di chi ha posto fede in Cristo. Chi lo ha compreso? 7. Nu 11, 1-3 mormorarono in modo irriverente. Quando si ha la tendenza a mormorare, qualsiasi occasione è buona. Il popolo di Israele era arrivato al Monte Sinai, aveva ricevuto le tavole della legge, conosceva ormai gran parte della volontà di Dio, ed ora era pronto per intraprendere il meraviglioso viaggio verso la terra promessa. Leggiamo nel Libro dei Numeri, in merito alla settima lamentela del popolo. Gli israeliti partirono dal Monte dell'Eterno e fecero 3 giorni di cammino, e l'arca del patto dell'Eterno andò davanti a loro per un cammino di 3 giorni, per cercare un luogo di riposo per loro. Ora il popolo si lamentò in modo irriverente, e questo dispiacque agli orecchi dell'Eterno. Come l'Eterno li udì, la sua ira si accese, e il fuoco dell'Eterno divampò fra di loro e divorò l'estremità dell'accampamento. Allora il popolo gridò a Mosè. Mosè pregò l'Eterno e il fuoco si spense. Così quel luogo fu chiamato Taberà, perché il fuoco dell'Eterno si era acceso fra di loro. Il racconto di questo episodio non ci rivela le ragioni del mormorio, ma l'Eterno Dio fu veramente dispiaciuto dell'atteggiamento del popolo, al punto che un fuoco mandato da lui stesso bruciò molte persone all'estremità dell'accampamento. Che un fuoco mandato da Dio bruciasse le persone non è una novità, perché prima di loro furono bruciati 2 figli di Aronne per aver fatto un'offerta ingiusta. E, in seguito, un fuoco brucerà 250 uomini che offrivano un profumo. Numeri 16 e 35. Come un fuoco brucerà 100 uomini al tempo del profeta Elia. 2 Re 1.12. Questi episodi non possono essere presi in senso allegorico, come non possono essere ignorati, perché, proprio per questo, nel Nuovo Testamento, l'autore della lettera agli Ebrei ricorderà ai suoi lettori che il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Questa espressione si trova almeno 3 volte nella Scrittura. Esodo 24.17, Deuteronomio 4.24, Ebrei 12.29, e ci ricorda che l'amore di Dio non invalida la sua giusta condanna nei confronti di chi non pone fede in Lui e quindi, come nel nostro caso, anche verso chi mormora. Se consideriamo seriamente come l'Eterno Dio reagisce di fronte alle mormorazioni, colui che crede, in ogni istante, nel parlare dovrebbe avere un santo timore, mentre l'incredulo dovrebbe avere un santo terrore riguardo alla giustizia di Dio. Sottovalutando come Dio tratta la lamentela, o prendendo alla leggera le manifestazioni del nostro malcontento, si apre la porta all'inferno e alle riprensioni di Dio. 8. Numeri 11, 4-35. Chi ci darà carne da mangiare? Quando si ha il vizio di mormorare, non ci si trattiene neppure davanti alla dimostrazione dello svantaggio procurato da un tale comportamento. Il popolo era stato appena penalizzato con un fuoco mandato dall'Eterno ed eccolo di nuovo intento a mostrare la scontentezza che alberga nel suo cuore. Il libro dei Numeri lo racconta così. E la marmaglia eterogenea che era tra il popolo fu presa da grande bramosia, e anche i figli di Israele ripresero a piagnucolare e a dire: «Chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che in Egitto mangiavamo gratuitamente, dei cetrioli, dei meloni, dei porri, delle cipolle e degli agli. Ma ora l'intero essere nostro è inaridito. Davanti ai nostri occhi nonché è nient'altro che questa manna». Or Mosè udì il popolo che piagnucolava, in tutte le loro famiglie, ognuno, all'ingresso della propria tenda. L'ira dell'Eterno divampò grandemente, e la cosa dispiacque anche a Mosè. Allora l'Eterno disse a Mosè: «Santificatevi per domani, e mangerete carne, poiché avete pianto agli orecchi dell'Eterno, dicendo: chi ci darà carne da mangiare? Stavamo così bene in Egitto, perciò l'Eterno vi darà carne, e voi ne mangerete. E ne mangerete non per un giorno, non per 2 giorni, non per 5 giorni, non per 10 giorni, non per 20 giorni, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e vi faccia nausea, poiché avete rigettato l'Eterno che è in mezzo a voi, e avete pianto davanti a lui, dicendo: perché mai siamo usciti dall'Egitto? Allora si levò un vento per ordine dell'Eterno e portò delle quaglie dalla parte del mare. E le lasciò cammino tutt'intorno. L'accampamento per una giornata di risi. All'accampamento ad un'altezza di circa 1 metro sulla superficie del suolo. Il popolo rimase in piedi tutto quel giorno, tutta la notte e tutto il giorno seguente e raccolse le quaglie. Avevano ancora la carne fra i loro denti e non l'avevano ancora masticata, quando l'ira dell'Eterno si accese contro il popolo, e l'Eterno percosse il popolo con una gravissima piaga. Così quel luogo fu chiamato Kibroti Hakahatava, perché là seppellirono la gente che si era lasciata prendere dalla concupiscenza. Cadere presso. Ancora una volta siamo di fronte ad un episodio veramente incredibile, ma se si accettano i brani descritti precedentemente, quello delle quaglie rientra nelle normali opere di Dio a favore del popolo di Israele. Notiamo che la scrittura mette in evidenza che ad iniziare le lamentele questa volta non è il popolo di Israele, ma coloro che si erano uniti agli israeliti per andare nella terra promessa. Il popolo di Israele che era già insoddisfatto di tutto quello che stava succedendo, che si lamentava continuamente dell'opera dell'Eterno, riprese anche lui lamentarsi perché ora voleva mangiare della carne. Questo modo di comportarsi dei credenti non è nuovo. Che gli increduli, che coloro che si professano cristiani e non lo sono, si lamentino, è normale e ovvio, ma che coloro che hanno posto fede in Cristo si dolgano come gli altri è un fatto deplorevole. Non riesco a dimenticare la scena e le parole di una credente che si lamentava a più non posso perché nel mese di Ferragosto, dove lei faceva le vacanze per una settimana, era sempre nuvolo. La sua lamentela era: «Hai visto il tempo? È possibile che nel mese di Ferragosto non esca il sole? Non è giusto. Io che tutto l'anno sono chiusa in un ufficio, ho il diritto che di avere il sole. Non mi possono fare questo». Di fronte ad una lamentela del genere fatta da una persona che si professa credente, che prega, legge la parola di Dio, frequenta una comunità e che si rivolge a chissà quale entità, non ci sono parole. È veramente vergognoso. Se l'Eterno Dio alla fine delle 10 lamentazioni del popolo ha condannato almeno 2 milioni di persone a vagare nel deserto, non è stato per un capriccio né per troppa severità, ma è stata la giusta retribuzione per chi disonora il suo Dio. Inoltre il popolo di Israele ricordava con nostalgia i cibi che aveva in Egitto, ma dimenticava volontariamente la sua schiavitù e il dolore. Questo atteggiamento del credente è disonestà bella e buona. Disonestà perché ricorda solo ciò che gli sembra positivo, mentre le grandi amarezze, i forti dolori, le continue incertezze, gli interminabili interrogativi presenti in chi non conosce personalmente Cristo non vengono messi sullo stesso piano. Dobbiamo dirlo con forza: a disonorare il cristianesimo non sono i dubbi e le frecciate sarcastiche degli increduli, ma le forti e insistenti lamentele e recriminazioni da parte di chi professa di credere nella sovranità di Dio, da chi afferma di aver posto fede in Cristo quale Signore, e in seguito, con il suo mugugnare, si comporta come un incredulo, se non addirittura peggio. Almeno un incredulo non fa differenza tra prima della conversione e dopo, non ritiene di avere dei diritti. Lagnarsi di ciò che Dio compie è la peggior forma di ingratitudine. Che Dio ce ne guardi. 9. Numeri capitolo 12.1.11. Non ha l'Eterno parlato anche per mezzo nostro? Dopo essersi lamentato per ogni cosa, ora il popolo si lamenta dell'autorità stabilita da Dio. È vero che a mormorare sono solo Aaron e Maria, tra l'altro due persone influenti, ma è quasi impossibile che due persone attacchino un'autorità se dietro non vi è un silenzioso mormorio e la complicità del popolo. Così viene descritto l'episodio nel libro dei Numeri. Miriam ed Aronne parlarono contro a Mosè, a motivo della donna etiope che aveva sposato. Infatti, egli aveva sposato una donna etiope. E dissero, l'Eterno ha forse parlato solo per mezzo di Mosè. Non ha egli parlato anche per mezzo nostro? E l'Eterno sentì. Or Mosè era un uomo molto mansueto, più di chiunque altro sulla faccia della terra. L'Eterno disse subito a Mosè, ad Aaron e a Miriam, voi tre uscite e andate alla tenda di convegno. Così loro tre uscirono. Allora l'Eterno scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aaron e Miriam. Ambedue si fecero avanti. L'Eterno quindi disse, ascoltate ora le mie parole, se vi è tra di voi un profeta, io l'Eterno, mi faccio conoscere a lui in visione. Parlo con lui in sogno, ma non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo faccia a faccia, facendomi vedere e non con detti oscuri, ed egli contempla la sembianza dell'Eterno. Perché? Dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè. Così l'ira dell'Eterno si accese contro di loro, poi egli se ne andò. Quando la nuvola si fu ritirata di sopra alla tenda, ecco. Miriam era lebbrosa, bianca come neve. Aaronne guardò Miriam ed ecco era lebbrosa. Il mormorio di Aaronne e Maria è stato dettato da gelosia e invidia. Questo aspetto rivela ancora maggiormente come il mormorio di protesta sia una forma odiosa, perché esso rivela altri numerosi peccati nascosti. Se il popolo nel mormorare perché non aveva carne ha rivelato la concupiscenza, ora nel brontolare perché Mosè non era l'unico al quale l'Eterno aveva parlato, rivela la forma più ripugnante della natura umana, e cioè l'orgoglio. Se la persona orgogliosa volesse solo essere stimata perché pensa di meritarselo, sarebbe comprensibilissimo, ma l'orgoglioso ha bisogno di umiliare e disprezzare il prossimo, e questo è veramente insopportabile. Aaron e Maria hanno cercato la gloria nel disprezzare Mosè, e Maria, che era più vecchia, è stata colpita dalla lebbra. In seguito Mosè pregherà per lei e guarirà, ma l'episodio mostra come l'Eterno non sopporti chi si lamenta. Ci è da domandarsi se certe sventure non siano il frutto delle nostre lamentele. 10. Numeri cap 13 e 14, scegliamo un capo e torniamo in Egitto. L'ultima lamentela del popolo di Israele prima del giudizio dell'Eterno avviene dopo che i 10 esploratori sono andati a perlustrare la terra promessa. La terra che l'Eterno aveva promessa al popolo si è rivelata veramente stupenda e abbondante di ogni benedizione, ma vi era un particolare che ha indotto di nuovo il popolo a lamentarsi. Così l'episodio è descritto nel libro dei Numeri. Gli uomini tornarono dall'esplorazione del paese al termine di 40 giorni e andarono a trovare Mosè ed Aaron, e davanti a loro e a tutta l'assemblea fecero un resoconto e mostrarono loro i frutti del paese. Così fecero davanti a lui il resoconto, dicendo, «Noi siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato, vi scorre veramente latte e miele, e questi sono i suoi frutti. Ma il popolo che abita il paese è forte, le città sono fortificate e grandissime, e là abbiamo pure visto i discendenti di Anak, cioè dei giganti. Caleb allora calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: «Saliamo subito e conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo». Ma gli uomini che erano andati con lui dissero: «Non possiamo salire contro questo popolo, perché è più forte di noi». Così presentarono ai figli di Israele un cattivo resoconto del paese che avevano esplorato, dicendo: «Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. E tutta la gente che in esso abbiamo visto è gente di alta statura. Inoltre là abbiamo visto i giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere delle cavallette. E così dovevamo sembrare a loro». Allora tutta l'assemblea alzò la voce e diede in alte grida. E quella notte il popolo pianse. E tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne. E tutta l'assemblea disse loro: «Fossimo morti nel paese d'Egitto, o fossimo morti in questo deserto. Perché l'Eterno ci conduce in questo paese per farci cadere di spada? Le nostre mogli e i nostri piccoli saranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi ritornare in Egitto?» E si dissero l'un l'altro: «Scegliamo un capo e torniamo in Egitto». Allora tutta l'assemblea parlò di lapidarli. Ma la gloria dell'Eterno apparve sulla tenda di convegno a tutti i figli di Israele. Allora l'Eterno disse: «Come è vero che io vivo? Tutti questi uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi che ho fatto in Egitto e nel deserto, e mi hanno già tentato 10 volte, e non hanno ubbidito alla mia voce, certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà». Questo episodio non ha bisogno di molti commenti. Il popolo che da sempre si era lamentato e aveva mormorato per ogni cosa, ora di fronte all'evidenza di un paese adatto alle proprie esigenze, ha trovato un'ulteriore ragione per dolersi. Triste e miserabile abitudine. E a questo punto, dopo la 10ª lagnanza da parte del popolo, l'Eterno condanna a non vedere la terra promessa e a morire nel deserto tutti coloro che avevano più di 20 anni, salvo Giosuè e Caleb. Questa drammatica fine del popolo di Israele, dopo migliaia di anni, è ripresa dai primi cristiani. L'Apostolo Paolo ne accenna nella sua prima lettera ai Corinzi, 10.1.11. «Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva, or quella roccia era Cristo. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro. Infatti furono battuti nel deserto. Or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi fecero, e affinché non diventiate idolatri, come alcuni di loro. Secondo quanto sta scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi. E non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno 23.000. E non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti, e non mormorate come alcuni di loro mormorarono, per cui perirono per mezzo del distruttore. Or tutte queste cose avvennero loro come esempio, e sono scritte per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dell'età. Le riflessioni fatte fino ad ora non hanno avuto uno scopo puramente moralistico, ma, come ha scritto bene Paolo, esse devono incitarci ad avere un santo timore di Dio e soprattutto a non mormorare o brontolare più per la vita che Dio ci propone e, a volte, ci impone. Lamentarsi è la forma più odiosa e ripugnante per chi ha posto fede in Dio tramite Cristo, perché disprezza i piani di Dio mediante i quali i credenti sono stati riscattati dalla perdizione. Come disse qualcuno, è più facile vivere avendo da lamentarsi che cercare di fare in modo di non doversi lamentare di nulla. Se dopo queste riflessioni continuiamo a mormorare, allora, come per Israele, il disgusto di Dio rimane nei nostri confronti, come leggiamo nei Salmi. «Per 40 anni ebbi in disgusto quella generazione e dissi: Sono un popolo dal cuore sviato e non conoscono le mie vie. Perciò, giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Salmo 95.1011. Se non realizziamo il riposo di Dio, abbiamo fallito non poco nella vita, ma tutto. Gennaio 2008. Ellero.